I'ma leave it all on the floor tonight. Baby got fixed up to the nines. Let me show you a few things. All dressed up in black and white, and you're dressed in that dress I like. Love is swinging in the air tonight. I can show you a few things. Let me show you a few things. Show you a few things about love. Let me show you a few things. Show you a few things about love. Hey. Justin Timberlake. Fuori programma romantico durante il concerto della pop star, il cantante ha infatti interrotto il suo show a Louisville in Kentucky per dare la possibilità ad un fan, sentite un po', di fare la proposta di matrimonio alla compagna. Timberlake ha infatti salire sul palco la coppia e il futuro sposo si è inginocchiato poi donandole l'anello, quindi tra le ovazioni poi del pubblico. A pochi metri da loro Justin, cerimoniere speciale del lieto evento, quindi al sì della ragazza poi c'è stata un'ovazione, un grido di gioia appunto di tutti i fan appunto di Timberlake. Che bella cosa, che carina, fare la proposta di matrimonio in un concerto del proprio cantante preferito. Bella, questa proprio sì che è bella. Bravo Justin che ha aiutato i suoi fan, insomma. Carina come cosa, bello, bello, bello. E noi andiamo avanti con la musica. Ehi, sembri me, come me. Quando parli ti nascondi, come me. Te ne vai, non rimani in questo abbraccio, vieni a prenderci la pioggia, porta in terra l'infinito. Hey, siamo noi quelli che si raccontano che è un gioco, siamo noi quelli che non si bruciano col fuoco. Per farci innamorare, oh, se bastasse quella luna, sai che fortuna è. Siamo in viaggio senza andare, mi fai bene, mi fai male, dimmi solo dove sei, per la vita che ci resta, ti vorrei. Difenderti. Siamo in pochi a far l'amore, a buttarci dentro il cuore. Io lo vedo che ci sei, e per la vita che ci resta, ti vorrei. Guardo fuori, vedo dentro, tutto quanto sembra lento. Piove forte sul cemento, cos'è che abbiamo perso per la strada? Guardo fuori e non ci penso, e la vita ci avvelena, sei con me, sei con me. Sei sbagliato, lo so. In questo cielo nero sei con me, sei per me, sei con me, sei per me, sei con me, sei per me. Alla fine dei tempi del mondo. Il tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. Sacrifice, Ozark Harry, siete sempre insieme a me all'interno di Semplicemente Insieme. Stavo dando un'occhiatina alle notizie e devo dire che ne ho trovata una, sì, carina, sembra proprio una vera e propria fiaba, ma è comunque una storia vera e per di più, ahimè, non ha un lieto fine. Il protagonista è un ragazzo di Wellington che, dopo aver incontrato una ragazza di Washington ad una festa di Capodanno dell'anno scorso, se n'è innamorato alla follia. Fin qui diciamo che è tutto normale, se non fosse che al termine del party la giovane, dopo avergli rivelato di chiamarsi Katie, lo ha lasciato con una sua fotografia e con la frase scritta appunto «Trovami». Beh, il giovane 25enne ha chiesto allora aiuto al popolo di internet per rintracciare la sua Katie, guadagnando tra l'altro migliaia di seguaci attratti dalla sua storia. Ma la ricerca, diciamo che sembrava essere davvero davvero disperata. Facebook gli stava proprio sfuggendo di mano, dice lui appunto, poiché i fan stavano cercando tra tutte le Katie di Washington. Ma ogni volta che sembrava potesse essere lei, puntualmente invece era un'altra persona. Beh, passato quasi un anno, quando ormai ogni speranza era ormai svanita e quando l'obiettivo prefissato sembrava ormai non essere stato raggiunto, ecco qui la grande e inaspettata sorpresa. Finalmente Katie viene rintracciata. Però, ahimè, il finale della storia è davvero triste. Beh, perché la ragazza, infatti, ha cancellato immediatamente il suo profilo Facebook ed ogni suo account di altri social. Il giovane Reese, però, in cuor suo spera ancora di poterla trovare per comunque dirle grazie, perché come lui stesso ha affermato, il 2013 è stato un anno che gli ha cambiato la vita e tutto è cominciato appunto quella notte quando ha incontrato la sua Katie. Beh, speriamo che riesca questo giovane, insomma, a ritrovarla. Chissà, magari potrebbe pure nascere una bella storia d'amore. Eventualmente, pazienza, si va avanti. Chissà, magari in un'altra festicciola incontrerà un'altra persona che questa volta la storia magari andrà a lieto fine. Lo speriamo. Che cosa carina, cioè l'ha cercata per tutto Facebook, tra l'altro pure facendosi anche dei fan. Che storia carina, interessante. Bello. In bocca al lupo a questo giovane ragazzo. Chissà, magari questa festa, quest'anno, a Capodanno, potrebbe incontrare la sua lei. Vedremo. Andiamo avanti! Se ci fossero istruzioni per spiegare il meccanismo che mi ha spinto a presentarmi a casa tua con questo viso, con la scusa un po' banale di riprendermi vestiti, libri, un po' della mia vita, quella vita che mi hai tolto, quella di cui non mi pento, e se il dolore è una corrente, io tempesta e paravento, con talento molto lento, voltati, guarda in faccia chi ti lascia, scordami. Passa, che ne è stato delle frasi, ci sarò comunque vada, e che servono gli incroci, se ognuno ha la sua strada. La mia strada era deserta, traversata da sconfitte, e con te quella promessa che le avrei date, con talento molto lento e coltami, sangue freddo sei, coraggio uccidimi. Amarmi poi ti passa, forse questo è il senso del mio vivere, forse dal dolore si potrà pure guarire, ma anche scrivere canzoni. Semplicemente insieme su CRM Happy Radio. Woohoo!

piccolo ricordo in cui nascosi anni di felicità. Ciao, e guarda con orgoglio chi sostiene anche le guerre che non può. E senza pace dentro al petto, so che non posso fare tutto, ma se tornassi farei tutto e basta. E guardo fisso quella porta, perché se entrassi un'altra volta vorrebbe dire che anche io sono morto già. E tornerei da te per dirti ciao, ciao. Mio piccolo miracolo, sceso dal cielo per amare me. Ciao. E cadono i ricordi e cade tutto l'universo. La vita come tu te la ricordi, un giorno se ne andò con te. Il tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. Ora che ti guardo, vedo solo il buono che rimane quando sai che tutto è perso, tutto è rotto ormai. Considerando noi soli in queste circostanze nuove, lasciamoci così, perché un legame sempre resterà. Pregherò. Yeah. You never believe the reason we are here, to make it better, change what we can, see the world the best that we know how. But now I'm left alone, left without a word. I'm so breathless, now I'm weightless. Never have I been so firm before. Bellissima canzone. Su questa canzone appunto saluto Maria. Adesso parliamo di birra, sì, perché per tutti gli appassionati della birra, pensate un po', sentite un po', arriva anche la birra spalmabile. Eh sì, proprio così. L'idea può sembrare quantomeno bizzarra, o uscita sicuramente dalla mente di qualcuno che di birra, insomma, ne beve tantissima, però la birra spalmabile, pensate un po', non arriva dalla Cina, non arriva dall'America, ma è un prodotto made in Italy. Quindi un prodotto nostro, è un prodotto dall'aroma intensa, dicono, dal gusto corposo, accompagna egregiamente antipasti e formaggi, ottima su crostini, originale idea per guarnire e farcire dolci di pasta, frolla e soffici torte. Quindi per tutti gli appassionati della birra adesso potrete anche spalmarla su tutto quello che vi piace, quindi sul pane, quello che volete praticamente, avete capito? Quindi tranquilli, adesso la birra diventa spalmabile. Queste sono le idee, questo è prodotto comunque made in Italy, quindi ci possiamo fidare, un prodotto italiano nostro. Bene, bene. E andiamo avanti. Hands up in the air. I just want the baddest bitch in the world right here on my lap. And I'ma hit this drink up like it's my last. I'ma hit this night up like it's my last. I'ma mm-hmm. like it's my last. Boy. I swear I'ma do it like I never had it at. Drink it all like it's my last. She a 7 in the face, but a 10 in the air. She even looked better by the end of my glass. See, I just walking fresher than the shirts off in this mode. I'ma need the baddest bra to twerk off in this mode. I'ma go hard until it hurts off in this mode. I'm a boss, so you gotta work off in this mode. I don't have to work, and I could get you anything you want. I could put you on. See, you look like Beyonce, so do it like Beyonce. Do it like Beyonce and put it on. Sean, grind hard, but got a lot to show for it. Always had drive like I had to show for it. My team's so true, we should get a camera crew to follow us around and make the show for us. And I'ma hit this drink up like it's my last. I'ma hit this night up like it's my last. I'ma like it's my last. I swear I'ma do it like I never had it at. Like I never had it at. Up like it's my last. I'ma do it like it's my last. I'ma spend this cash up like it's my last. And I'ma make it last like it's my last. And I'm gone. Can't remember where I am, but she forget about her man when they tell her who I am and they introduce my fam. Now she all up in my space, all up in my face, like you remember who I am. Since I signed the con, I'm Louis Vuitton, shine up in Benihana, eating all the wonton. Rose, rose, or a little shine down. Put her hands down my pants, now she rockin' Shine John. Man, I just ended up on everybody guest list. I'm just doing better than what everyone projected. I knew that I'd be here, so if you ask me how I feel, I'ma just tell you it's everything that I expected. Boy. Hands up in the air. Boy. One time for the west side. Let me see them hands up in the air. One time, two times if you love good music. Hands up in the air, yeah. And three times for the baddest chick in the world who got her hands up in the air, yeah. Yeah. Now I'ma hit this drink up, yeah. It's my last. I'ma hit this night up like it's my last. I'ma like it's my last. I swear I'ma do it like I never had it at. Buckets. I work too hard to be ballin' on a budget. Me and my people do it big out in public. Cause if you don't do it big, you ain't doing nothing. I'ma hit this drink up like it's my last. I'ma hit this night up like it's my last. I'ma like it's my last. Boy. I swear I'ma do it like I never had it at. Like I never had it at. Oh,

Christmas is you. Su questa canzone saluto Lucia. Ciao Lucia, un bacione grande grande. Diciamo che oggi come oggi, no, con i cellulari, gli smartphone, insomma qualsiasi momento del viene condiviso, dalla nascita di un figlio, insomma, al primo bacio. Alcune persone proprio sentono il bisogno assoluto di condividere qualsiasi cosa via tweet e magari usarlo anche per essere informati e fare sapere a tutti, per esempio anche i propri followers, quando è ora, per esempio, di cambiare il pannolino del figlioletto. Beh, per la prossima generazione c'è da qualche tempo un dispositivo che permette di twittare ancora prima di nascere. Eh sì, ebbene sì. Si tratta di una fascia, sentite, dotata di sensori che va indossata dalla futura mamma e che posta un tweet quando il bambino, per esempio, scalcia. Questo dispositivo si chiama KickBee e sarebbe pensato appunto per i papà che sono spesso lontano da casa e quindi per renderli più partecipi alla gravidanza della compagna. Infatti il papà può ricevere via tweet messaggi tipo ho preso a calci la pancia della mamma o cose del genere. Nonostante la curiosità che ha generato, non si può dire che comunque il dispositivo abbia avuto un successo enorme. Il limite principale è che i tweet tendono comunque a diventare ripetitivi e anche fastidiosi, insomma, ogni volta che vengono pubblicati sul profilo. Praticamente non ogni cosa viene condivisa, da tutto, ma dico un po' di privacy, no? Però ognuno, giustamente, come dico sempre io, fa quello che vuole. Contenti tutti, contenti loro, contenti tutti, si dice così, no? Perché oggi c'è questa mania, no? Di mettere tutto, pubblicare tutto su Facebook, su altri social, no? Qualsiasi cosa, primo bacio, il piatto che si mangia, cosa si sta facendo. Però vabbè, ognuno fa quello che vuole, appunto, come dico sempre io. Poi dipende dalla discrezione di ognuno di noi. E noi continuiamo, andiamo avanti con la musica. 16:26, sempre in diretta su CRMP Radio. Resto fermo tra le onde mentre penso a te. Fuoco rosso, luce rondine. Tra le foglie soffia un vento molto debole. Nel frattempo un fiore sta per nascere. Eccoci qua a guardare le nuvole su un tappeto di fragole. Fingi di amarmi. E una foto un po' ingiallita è tutto quel che ho. E non capisco se ridevi o no. Qui trafitto sulla terra steso me ne sto. Fingi di amarmi. Ah! amore, fingi di amarmi. Il tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. Pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. A questo incrocio dimmi dove si va con un passo in più, tu che forse un po' hai scelto di già di non amarmi più. Come quadri appesi, leve senza pesi che non vivono, come quando c'era una vita intera, due che si amano. E salgo ancora in alto perché è lì che c'eri tu, ma ora serve il coraggio per me di guardare giù. E non c'è niente che al mio cuore quando insiste, perché so che tu non passerai mai, che non passerà, non passerà, non mi passerà, non passerà. allora adesso confesso, non avevo che te. Come faccio a vivere adesso solo senza te? E senza i tuoi sorrisi e tutti i giorni spesi, oggi che non c'è, è che è una porta chiusa e nessun'altra scusa per condividere. E salgo ancora in alto perché è lì che c'è. Perché so che tu non passerai mai, e che non passerà, non ne passerai, passerai. E quanto amore mancherà. Su questa canzone saluto Viviana. Ciao Viviana. Stavo dando un'occhiata un po' alle notizie. Beh, questa è simpaticissima, proprio da ridere, perché vabbè, lo sappiamo, ormai dal Giappone arrivano spesso prodotti piuttosto insoliti. E questa, beh, è la volta di due robot che sì, che vi annusano e sostanzialmente vi insultano se puzzate. Beh, i robot sono stati sviluppati dalla società Crazy Labor e uno si chiama Kaori ed è destinato a dare giudizi sull'alito, mentre l'altro, Shintaro, che è un cane che vi annusa i piedi. Beh, se il vostro alito è buono, Kaori, beh, vi risponderà che è come il limone. Invece, se è un po' cattivo, vi farà notare, senza peli sulla lingua, che è appunto meglio starvi lontano. Allo stesso modo, il cane, se i vostri piedi hanno un buon odore, beh, si accoccolerà su di voi. Se puzzano un po', invece inizierà ad abbaiare e addirittura cadrà a terra mugolando. Se invece puzzano molto, molto, perderà addirittura conoscenza. Beh, la reazione esagerata, spiegano gli ideatori, è per spingere le persone a prendere maggiore coscienza dei propri odori e far qualcosa in merito se necessario. Questa proprio è è troppo forte questa qua, divertente, io la trovo simpatica questa cosa qui, no? Due robot che proprio ti insultano se, insomma, se c'è qualcosina che non va. Interessante, molto divertente. Noi andiamo avanti con la musica, che è meglio. Jimmy, I just came back from a lovely trip along the Milky Way. I stopped up at the North Pole to spend the holiday. I called on old dear Santa Claus to see what I could see. He took me to his workshop and told his plans to me. Now Santa is a busy man. He has no time to play. He's got millions of stockings to fill on Christmas Day. You better write your letter now and mail it right away, because he's getting ready his reindeers and his sleigh. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town.

tu hai raccolto, tu mi stupisci ancora. In tutto quel che fai mi meravigli ancora. Quando non eri mia come la prima ora, tu non lo sai, ma non ci credevo più. Io prima di te. Su questa canzone saluto Lucia. Sono le 16:48, ancora insieme a me, insieme a Jerry, sino alle 17, sempre con tanta bella musica, notizie e curiosità. Poi tranquilli, perché poi ritorno naturalmente, ovviamente. Non vado via subito, tranquilli, per venerdì ci sarò, ovviamente. Eh sì. E allora vi ricordo il 335-56-37251 ancora per le vostre richieste o anche per i vostri saluti, perché no? Safety pins holding up the things that make you mine. About your hair you needn't care, you look beautiful all of the time. Shine, shine, shine on. Things with people at the seams, but you still read. I must admit, I don't believe in it, but I see how you get sucked in. Shine, shine, shine on. Up the things that make you mine. About your hair you needn't care, you look beautiful all of the time. Il tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. Da mille valanghe ho smarrito la felicità, la cerco combattendo, fuggo da questa città perché non possa guardarmi, perché non possa fotografare la condizione del mio cuore che ora danza lento e immobile tra gli scogli dei ricordi, che ora è qui deriso e stanco tra il ricordo e l'illusione di ciò che era puro amore. Questa notte è nostra, corri forte angelo. Motivo per rimanere vivo e

E questa era l'ultima canzone in programma per oggi all'interno di Semplicemente Insieme, sempre su CRM Happy Radio. E allora vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi. Vi lascio ad Alessandro Savarese e al suo CRM Happy Days. E mi raccomando, fate sempre i bravi. Ciao ciao, alla prossima, baci! Semplicemente.